aspettami nel cielo, amore mio, se te ne vai per prima. Aspettami che presto arriverò lì dove tu sarai. Aspettami nel cielo, amore mio, se te ne vai per prima. Aspettami nel cielo, amore mio, lì ci ameremo ancora. E così il nostro amore è tanto immenso che non ha confini, e la vita è così corta e non basta per il nostro idillio. Per questo io ti prego, amore mio, aspettami nel cielo, e lì fra quelle nuvole vedrai, faremo il nostro nido. Aspettami nel cielo, amore mio, se te ne vai per prima. Aspettami nel cielo, amore mio, lì ci ameremo ancora. Amore tanto immenso che non ha confini, e la vita è così corta e non basta per il nostro idillio. Per questo io ti prego, amore mio, aspetta. E lì fra quelle nuvole vedrai, faremo il nostro nido. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. El giardino del suo cuore appassì 29 fiori che il sole bruciò, e quel giorno sorridendo sospirò, bevi le sue labbra spargendo amore, e fra il torrente del mio pianto senza uno sguardo sola se mi andò. del cuore, perché mai, perché mai seguire dove andrò, se so che ho perso te. Sento intorno a me l'oscurità, perché mai cercare, se già mai tu ritornerai. Per un'eternità. capirai che sono stato sincero. Forse qualcuno ti racconterà che io ti amo davvero. Ancora un po' e forse dopo ci capiamo meglio. Ancora un po' ho le fragranze di un affetto nuovo. Torniamo sul cammino dell'amore. Che importa se dovrò dimenticare, se soffriremo poi per un errore, è meglio supplicarti. Ancora un po' sarà un sollievo per il nostro cuore, ma se tu vai, portati via le mie braccia stanche. Tu sai che ho dato a te il mio amore e poi la vita intera. Che mi importa averle dopo tutto, se non ho già più niente. Perché partire mai così presto? Non godi l'agonia se la notte aspetta tutto il giorno. Aspetta un po' anche te. Torniamo sul cammino dell'amore. Che importa se dovrò dimenticare, se soffriremo poi per un errore, è meglio supplicarti. Ancora un po' sarà un sollievo per il nostro cuore, se tu vai, portati via le mie braccia stanche. Tu sai che ho dato a te il mio amore e poi la vita intera. Che mi importa averle dopo tutto, se non ho già più. Perché partire mai così presto? Non godi l'agonia se la notte aspetta tutto il giorno. Aspetta un po' anche te, ancora un po'. Ancora un po', ancora un po'. Anima mia sola, sempre sola, e nessuno capisce la sofferenza, la triste realtà. Fingendo un'esistenza sempre piena di gran felicità, di gran felicità. Se un'anima trovassi come la mia, potrei svelare tutti i segreti miei. Guardandoci negli occhi senza dir niente, saprà dire tutto profondamente. Un'anima che arrivasse con dolce vento, che nel bacio sentisse quel che io sento, se fosse vero che un'anima trovassi come la mia. Profondamente un'anima che arrivasse con dolce vento, che nel bacio sentisse quel che io sento, e a volte mi domando se fosse vero che un'anima provassi come la mia. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Ecco una proposta, prendiamo le distanze dai nostri amici, se ci può servire. O chissà, è ora già di traslocare, i bimbi son grandi e cercano spazio. Ecco una proposta, beviamoci insieme come innamorati la notte in un colpo. dobbiamo salvarci. Il mondo non pensa che siamo vicini al nostro olocausto. Ecco una proposta: tu non cucinare, non far le faccende, io lascio i giornali. Ti propongo questo: spezziamo da oggi il tran tran della vita che ci sta uccidendo. Al diavolo tutto, siamo tanto ciechi da precipitare in un pozzo infinito. E da tanto tempo quel treno è partito con i desideri. E fra discussioni e darci la colpa ci sfugge la vita. Ai, al diavolo tutto, usciamo dal buio che abbiamo creato, il carcere apriamo. Sarò io l'amante e tu graffierai il mio corpo assettato, bevendo in un tenero bacio quest'ultima goccia d'amore. Vuoi che sia sincero? Tu mi manchi tanto. Al diavolo tutto, siamo tanto ciechi da precipitare in un pozzo infinito. E da tanto tempo quel treno è partito con i desideri. E fra discussioni e darci la colpa ci sfugge la vita. Ai, al diavolo tutto, usciamo dal buio che abbiamo creato, il carcere apriamo. Sarò io l'amante e tu graffierai il mio corpo assettato, bevendo in un tenero bacio quest'ultima goccia d'amore. Vuoi che sia sincero? Tu mi manchi tanto. Prima di te, ora lo so, l'amore fu niente per me. Che anima e vita ho dato a te, son tuo. Lo giuro, ora che solo resterò, dimenticarti non saprò, sarà impossibile per me, lo giuro. Vorrei che tu tornassi qui, noi ci ameremo sempre più, davvero. Qualcosa è morta dentro me e non ho più felicità e non ho vita senza te, lo giuro. Lo giuro, non so capire come mai io possa ancora amare te, se per amarti ho perso già l'orgoglio. Lo giuro, senza di te non so che fare, sicuramente impazzirò. Lo giuro, se tu volessi ritornare, ho mille forme per amar, tanti ricordi da narrare. Io te lo giuro che sto morendo senza te, che non son niente senza te, lo giuro. Non so capire come mai io possa ancora amare te, se per amarti ho perso già l'orgoglio. Lo giuro, senza di te non so che fare, sicuramente impazzirò, lo giuro. Se tu volessi ritornare, ho mille forme per amare, tanti ricordi da narrare. Io te lo giuro che sto morendo senza te, che non so niente senza te, lo giuro. Lo giuro. Cose belle che hai vissuto nel passato. Devi capire che da quando noi ci amiamo tutto ciò deve finire. Per ogni volta che racconti che qualcuno le tue mani ha carezzato, c'è nel mio cuore un fuoco lento che mi brucia e ti impazzisco in un momento. Tu sei stata il mio balsamo benigno, mitigando la ferita. Lascia che sia questo amore, questo idillio, questo il punto di partenza. Non raccontarmi le tue storie già vissute, né cosa hai dato, neanche quello che hai avuto. Lascia che io creda d'essere stato il solo che ti ha cordeggiato. Che senso ha che tu mi parli del passato, se con te voglio cominciare un'altra vita? Ti chiedo ancora di pensare che per noi questo è il punto di partenza. Raccontarmi le tue storie già vissute, né cosa hai dato, neanche quello che hai avuto. Lascia che io creda d'essere stato il solo che ti ha cordeggiato. Che senso ha che tu mi parli del passato, se con te voglio voglio cominciare un'altra vita. Ti chiedo ancora di pensare che per noi questo è il punto di partenza. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Solo con mirarte lo puedo entender, solo con hablarte no sé comprender. El amor se ha fugado contigo, aunque sé que no quieres decirlo. Tengo miedo de pensar, no me atrevo a respirar. No imagino tanto destruido en mi interior, para olvidar un nudo al corazón, lo arrancaré de mí, lo arrastraré, lo pisaré, lo colgaré, lo haré sufrir, para olvidar haré un nudo al corazón, lo arrancaré de mí, lo arrastraré, lo pisaré, lo colgaré, para olvidar. Alguien como tú, yo caminaré y no hallaré otra luz. Yo entregué por tu vida mi alma, y ahora tú me has robado la calma. Qué amarga es mi obsesión, no sabré decirte adiós, pues jamás aprenderé a querer a otra mujer. Para olvidar haré un nudo al corazón, lo arrancaré de mí, lo arrastraré, lo pisaré, lo colgaré, lo haré sufrir, para olvidar haré un nudo al corazón, lo arrancaré de mí, lo arrastraré, lo pisaré, lo colgaré, para olvidarte. Di fuori è tanto freddo. Stringimi al tuo seno finché non sia mattina. Al tuo capezzale arriverà la notte. Chissà se ti consiglia o poi non dice niente. Insieme domattina potremo riparlarne, ma se tu sei decisa e altrove puoi andare, allora sarà invano cercare di fermarti. Regalami stanotte, ritarda la mia morte. Arriverà la notte, chissà se ti consiglia o poi non dice niente. Insieme domattina potremo riparlare. Dove vuoi andare? Allora sarà invano cercare di fermarti. Regalami stanotte, ritarda la mia morte. Se non fosse per te, chissà dove sarei. Cercherei per il mondo una strada, ma senza capire la finalità. Se non fosse per te e per quei baci tuoi, starei navigando nel buio. Le storie di sempre, io sono così. Se non fosse per te, chissà dove sarei. Mai avrei imparato la notte, i dolcissimi giochi che inventavi tu. Se non fosse per te, senza gli abbracci tuoi, non avrei mai viaggiato lontano nei mondi di sogno che solo sai tu. Se non fosse per te, una brezza di vento sarebbe bastata, chissà. Ed un giorno stanco di tutto sarei emigrato via via da qui. Se non fosse per te e per quei baci tuoi, senza gli abbracci tuoi, sarei perso senza te, lo so. Se non fosse fosse per te e per quei baci tuoi. Senza gli abbracci tuoi sarei perso senza te, lo so. Di vento sarebbe bastata chissà, ed un giorno stanco di tutto sarei emigrato via via da qui. Se non fosse per te e per quei baci tuoi, senza gli abbracci tuoi sarei perso senza te, lo so. Mi basta, lo sai, soltanto parlando mi basta, lo sai. È partito con te il nostro amore, ma io so che tu a me non vuoi dirlo. Ho paura di pensare, il fiato non ce l'ho. L'amore che ho per te si distrugge dentro me. Per non pensarti più, un nodo al cuor farà lo strapperà da me, lo striscerà, calpesterà, appenderà e soffrirà. Per non pensarti più, un nodo al cuore farà, lo strapperà da me, lo striscerà, calpesterà, appenderà. Per non pensarti, io non troverò un'altra come te. Camminerò nel buio senza te. Ti lasciai la mia anima in pegno e ora tu la tratti con disdegno. È l'amara verità, salutarti non saprò e giammai imparerò ad amare un'altra te. Per non pensarti più, un nodo al cuor farà, lo strapperà da me, lo striscerà, calpesterà, appenderà e soffrirà. Per non pensarti più, un nodo al cuore farà, lo strapperà da me, lo striscerà, calpesterà, appenderà. Per non pensarti. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Destino è se un pazzo come me, un trovatore oggi è stato quello che a te ha insegnato a navigare fra le stelle e a te ha viziato in tutte quelle cose belle, quel che ha svegliato in te l'istinto addormentato, perché trovassi ancora in te quel che era stato. Destino è se un pazzo come me, un vagabondo, un sognatore come me, l'arcobaleno ha disegnato nei tuoi sogni e ha preteso ad ogni costo farti sua, cercando sempre l'impossibile da offrirti. A te mancava un gran pazzo come me. Destino è se un personaggio, il miglior del manicomio, il tuo sogno è il tuo anelito ha voluto. Solo un pazzo come me, senza timore di un successo, ti ha poi detto sarai mia, solo mia. Destino è se un pazzo come me ha alterato il tuo tempo e la routine. Per Dio ti giuro, tu non puoi già farne a me pazzo come me. Destino è se un personaggio, il miglior del manicomio, il tuo sogno è il tuo anelito ha voluto. Solo un pazzo come me, senza timore di un successo, ti ha poi detto sarai mia, solo mia. Destino è se un pazzo come me ha alterato il tuo tempo e la routine. Per Dio ti giuro, tu non puoi già farne a meno d'un gran pazzo come me.